difficile, lo so, però è mio tuo. Musica allo stato puro, ti ripigli, è sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace, che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che mace, che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Venghino signore e signori, è arrivato il folclorista. Permesso? Ecco a voi Gigi D'Agostino. Noi ci troviamo qui per ascoltare, buttare il cammino di Gigi D'Agostino. È vero, è vero. Gigi, puoi fare gli auguri ad Annalisa, che oggi compie 19 anni. Che dici? Ah, ieri. Quindi? Puoi fare gli auguri ad Annalisa, ieri ha compiuto 19 anni. Preciso. Puoi dedicarle una tua canzone. Grazie dalla sua mamma. Vorrei dedicare un tuo brano, scegli te, alla mia sorella Luna, che ha 10 anni ed è già una tua fan. Simone da Pontedera. Ma che è? Ah, Pontedera. Ignorante. Sono Angelo da Alba. Volevo ascoltare una canzone che stimola l'immaginazione. Yeah. Sandra, io per te ci sarò sempre. Ti voglio un sacco di bene. Papà, Bruce 69.

Vi aspettano Colpi di Martello domani sera, giovedì 7 settembre, Pala Oratorio di Oggiono. Oggiono, Lecco. Venerdì 8 settembre alla discoteca Ayers Rock One. Sabato 9 settembre alla discoteca 24.000 Baci, Latina. Latina. Ci vediamo lì. Latina. Su M2O Gigi D'Agostino, la sua musica prende vita. Accendo la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino, la sua musica prende vita. Mi aprite l'audio? Non ci prova, eh? A cosa? Gigi, eh? Siamo Antò e Ciano da Siracusa. Purtroppo a Mantova per lavorare. Beh. Nonostante i 1300 chilometri che ci separano da casa, il tuo cammino ci aiuta a ricordare tutti i bei momenti trascorsi quest'estate in spiaggia. Con te, con gli amici, con te, con gli amici, con te, con gli amici, con te, con gli amici. Sì, troppo spacchiuso su. Che dici? Spacchiuso. Spacchiuso. D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello ai due marinai Michele e Alessandro, Marco da Caltanissetta, Angelo da Torino, Max da Messina, Sara e Carlitos, Nino e Giuseppe da Lampedusa, Antonella dalla Sicilia, Antonio da Strongoli, Mirko da Treviso. ci fermiamo a quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Sono Peppe da Foggia. Mi fai ascoltare il reparto pelle d'oca? Pampo te. Vorrei dedicare il reparto pelle d'oca al mio dolce amore Chiara, che mi manca da morire. Brian, da Bologna. Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. E Gigi D'Agostino mandano una salutata a Nadia De Roma. Te saluto. Di musica volevo ricordare al mio unico amore Emanuele che la mia vita è sua. Ti amo da impazzire. Tua Paperina. Oh, Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Radu dalla Romania, Salvo da Busso, Eli da Bologna. Ciao! Bogacci via questo! Solo dirti che somigli moltissimo al Saiyan che si chiama Napa. Ma chi è? Ascoltando del cammino, balla Gigi D'Agostino, questi passi D'Agostino, sono Gigi del cammino, passi, passi del cammino, tu sei Gigi, tu pulmino, questi passi del cammino, sono Gigi D'Agostino. Sabato con la tua musica mi sembrava di essere alle Seychelles. In che senso? Vorrei dedicare Techno Wants a Paola, da Silvio. Musica, ho conosciuto Regina, l'amore della mia vita. Mirko da Grosseto. M2O. Un bacio a nostra figlia Sofia di 22 mesi, che quando ti sente comincia a ballare. Michela e Davide di Padova. Sono Chicca da Frosinone. Puoi dire a quello scemo del mio collega Fabrizio che sono pazza di lui? Scemo. Lo capisti? E andiamo! E mica l'abbiamo portato un pagliere! Marina Roma 3-0! Avanti, battuta regolare! Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Michela 60 e Andrea 54, Veronique, Salvi e Diana dalla Svizzera, Leccesina, Piero di Brescia, Claudia di Voghera, Enrico da Roma, Laura da non si sa dove, Salvatore da Napoli, quello che lavora in ospedale. Ma ciao proprio. Gigi D'Agostino come? Eh? Beh, io non lo conosco, non mi hanno presentato mai. Ma dai! E sto scherzando. Il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, la prossima settimana saranno in Sicilia. Venerdì 15 settembre, discoteca Coconut, Capo d'Orlando, Messina. Sabato 16 settembre, discoteca Flexus, Messina. Working for the next day. 7 days to go. 3 days to go. accettato finalmente di uscire con me. Sono felicissimo. Spero che in un futuro i nostri cammini si congiungano in uno solo. Nico, per gli amici del forum, Cuzzo. M2O. Vorrei dedicare, per me amore vuol dire aver incontrato te, al mio Mickey, che lo amo tanto. Baci dalla Cocchi. Vorrei dedicare amore vuol dire aver incontrato te ad Alessio e dirgli che amore vuol dire aver incontrato lui. Anto 92. Che potresti mettere per caso quella che dice amore vuol dire aver incontrato te. Fai tu. Alex Vertigo del forum. Volevo dedicare per me amore vuol dire aver incontrato te al mio primo immenso amore, Alessandra. Nick. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto. Quando ci perdiamo nei nostri abbracci, sentire quel pianto è una stretta al cuore. Quanto amore in quelle mani, quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente, quando vorrei dirti tutto quello che siamo da quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amore, forse vuol dire sentirsi vivi, forse vuol capirlo. Forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato. Perché chi ama non lo sa spiegare. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo. Incontrato te.

Minchia, su Gigi sa suona, sa canta, sa balla. Gigi D'Agostino. Dov'è il vocalist? Lavora. Libera la mente. Dimentica perché. Apri le tue ali e vola via con me. Libera la mente. Dimentica perché. Apri le tue ali e vola via con me. Grazie per quest'ora. Con la tua musica mi aiuti a non pensare ai miei problemi, che mi stritolano la testa. Max 70. Ma che è? Chiaro, no? ciao, ciao, ciao, ciao. Agoso. Ciao, ciao, ciao, ciao. Dai, dai. Ciao e grazie.